Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora la cronaca di questa giornata economico-finanziaria ha degli elementi che provengono dal Consiglio dei Ministri per quello che riguarda alcune iniziative, soprattutto per il via libera al progetto di federalismo fiscale. Già ve ne hanno accennato i nostri GR, ne parleremo nella seconda ora del programma. Attenzione, la parte proprio tecnica arriverà con i decreti attuativi, l'impianto è quello in qualche modo anticipato in queste settimane, in questi giorni dai giornali, con l'elemento del fondo perequativo che dovrebbe riuscire, da quello ma poi ne parleremo ampiamente, a riequilibrare i diversi gettiti, quindi di fatto la diversa ricchezza che esiste nelle aree geografiche del paese, nord, centro e sud, ma a produrre, stando anche a uno studio pubblicato, alcuni di voi lo ricorderanno, da Sole 24 Ore, un risparmio complessivo della spesa. Avremo un'ampia pagina e anticipo che non sarà certo solo con questa puntata che esauriremo il tema. Meno notizie invece oggi sul fronte all'Italia, nel senso che la trattativa prosegue, probabilmente andrà avanti nel corso della notte e comunque il commissario straordinario ha indicato anche nella data di domani, la data diciamo finale per la trattativa, e quindi all'Italia oggi una volta tanto occuperà uno spazio meno rilevante nel programma. Avremo invece un'apertura dedicata di nuovo a quello che sta capitando sui mercati di mezzo mondo, del mondo intero, nel senso che l'euro è sceso anche sotto quota 1,39, è arrivato a 1,38,1 a livelli bassissimi per la moneta unica. Il petrolio è anche sceso sotto quota $100, il livello più basso dello scorso 2 aprile, ma non si placano i rumori e i tamburi di guerra, si direbbero molte, ma i rumori di crisi negli Stati Uniti, perché Lehman Brothers, uno dei colossi bancari americani, dopo il fallimento del tentativo di salvataggio da parte dei coreani, sta di nuovo precipitando in borsa, meno 20% a Wall Street, una borsa americana che sull'indice Standard & Poor's ha toccato il livello più basso da 3 anni a questa parte. In questo momento i punti sono 1224 per la precisione. Insomma, come già detto ieri, a questo punto ci si interroga nuovamente per capire a che livello ci si sia, a che fase si sia di questa crisi finanziaria, nonostante le rassicurazioni, nonostante gli interventi delle banche centrali. La situazione americana, invece che districarsi e semplificarsi, sembra complicarsi ulteriormente. Molti chiedono che a questo punto si faccia chiarezza, a costo anche di pagarla nel breve termine, ma che smetta questo stilicidio continuo di finte rassicurazioni che vengono smentite dai dati di bilancio e dalle crisi dei titoli in borsa. Nel silenzio, devo dire, e qui introduciamo un tema di politica internazionale, nel silenzio della campagna elettorale americana, molto più giocata in questo momento sui numeri 2 e su alcune elementi di carattere di politica estera che non sui temi economici, e questo silenzio cercheremo anche di analizzarlo. È un silenzio delle volte imbarazzato, nessuno, l'impressione che abbiamo avuto è questa, nessuno ha in questo momento una ricetta tale da poter essere tradotta in slogan politico forte e anche forse risolutivo per la campagna elettorale stessa. Parleremo poi di mercati finanziari, meno 0,7% in questo momento l'America, mercati finanziari in senso stretto, Parigi meno 0,80, come Francoforte, Londra meno 0,7, Milano perde mezzo punto percentuale sull'S&P MIB e sul MIBTEL, di negativo c'è soprattutto Seat meno 4,7, Parmalat meno 3,90, Mediolanum meno 3,20, Bulgari meno 2,80 come Buzzi Unicem e l'Espresso meno 2,4%, Fiat meno 2,3%, Mondadori meno 1,90, Prismian meno 1,80 come Fondiaria Sai e Intesa San Paolo, ma anche Unicredito. Di positivo oggi c'è invece Atlantia più 2,6 come ST Microelectronics, Tenari più 2,1, Tenaris, scusate, più 2,1, Saipem più 1,4, Eni più 1,1, Snam più 0,7% come Luxottica. E allora, 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie. Allora, euro debole, dicevamo, dopo che è risalito a quota 1,39, ma insomma viaggia sempre tra 1,38,9 e 1,39, risalito dopo dati americani peggiore delle attese, il deficit commerciale è salito in America, nonostante il dollaro debole, l'America non riesce a esportare, o meglio, continua a importare di gran lunga più di quanto non riesca a esportare. Detta tutta, se non ce la fa nemmeno col dollaro così debole, evidentemente c'è un problema di modello produttivo, di struttura produttiva negli Stati Uniti. Comunque, l'euro è ritornato a 1,39, sempre su livelli deboli, il petrolio sotto i 100 dollari, per quello che riguarda adesso è 100,2, insomma siamo sempre lì. Per quello che riguarda il tema dell'energia, oggi l'ENI ha deciso di dotare l'ENI Foundation dei mezzi finanziari necessari per erogare il contributo di 200 milioni di euro deciso dal gruppo nei mesi scorsi e il contributo al fondo di solidarietà alle famiglie meno abbienti contro il caro greggio. Ma nel frattempo arrivano brutte notizie proprio per le famiglie, perché secondo gli studi di Nomisma Energia l'aumento del gas sarà del 6%, quello della luce del 3,7% dal 1 ottobre, con un aggravio complessivo di oltre 80 euro per ogni famiglia su base annua. Dicevo che del federalismo parleremo ampiamente nella seconda ora. Comunque oggi il Consiglio dei Ministri, tra le altre cose, ha dato il via libera definitivo al progetto di federalismo fiscale, che avverrà contemporaneamente con l'approvazione della manovra economica della finanziaria nel mese di settembre. Quella di oggi era la prima approvazione preliminare, poi il testo sarà discusso il 18 settembre nella conferenza Stato-Regioni e poi dovrebbe arrivare via libera definitivo. Così ha spiegato il ministro per la semplificazione legislativa Roberto Calderoli, il quale ha anche annunciato che vi sarà nel disegno di legge un'autonomia di entrata e spesa per gli enti locali e che questo progetto porterà a uno stop, a un blocco della spesa storica e l'introduzione invece dei costi standard. Proprio il costo standard per il servizio è il meccanismo assieme al fondo perequativo su cui si regge tutta l'operazione del federalismo fiscale. Calderoli ha anche assicurato che il federalismo che verrà approvato poi nel mese di settembre avrà come obiettivo quello di essere responsabile e solidale. Ritengo che quel grande obiettivo che ci eravamo posti di coniugare a efficienza, responsabilizzazione, anche in termini di solidarietà, nel termine di un federalismo fiscale solidale, sia stato raggiunto, e credo che un confronto particolarmente approfondito con il Mezzogiorno attraverso i ministri che lo rappresentano e gli enti locali ha consentito di garantire che i diritti costituzionali debbano essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che siamo in grado di garantire anche il completo finanziamento, anche attraverso la perequazione della realizzazione di questi diritti costituzionali. È evidente che però si chiede una responsabilizzazione della classe amministratrice, una trasparenza nella gestione e conseguentemente la possibilità da parte del cittadino di un controllo di come vengono utilizzate le risorse pubbliche, che sono poi le sue di risorse. Allora, ripeto, di federalismo parleremo alle 18, attenzione a chi scrive, dico, come sempre, come qualunque tema, lo affronteremo da un punto di vista fattuale, oggettivo, del calcolo economico. Il federalismo di per sé stesso, se porta un risparmio nei conti dello Stato, è benvenuto, va anche detto, senza esprimere nessun giudizio di valore, che se è vero che occorrerà capire bene come non si crea sperequazione nel Paese, non è nemmeno possibile che, mi riferisco per esempio al deficit della spesa sanitaria, tre regioni da sole abbiano il 70% di tutto il deficit della spesa sanitaria del Paese: Sicilia, Lazio e Campania, con l'aggiunta della Liguria arriviamo quasi all'80%. Voglio dire, non è possibile che ci siano regioni che riescano a stare nei soldi che hanno avuto, che hanno ricevuto da Roma, e regioni che regolarmente sforano questo tetto. Poi non mi dite che, diciamo, nelle regioni l'efficienza in questo caso è sempre garantita. Forse se prelevi tu direttamente, gestisci tu direttamente, qualche responsabilità in più te l'assumi. Altra cosa è poi garantire appunto che non vi siano sperequazioni nel paese, ma insomma affrontiamo i temi sempre senza un preconcetto ideologico. Andiamo avanti con l'Alitalia, presidio dei dipendenti, contestazioni di molti dipendenti, con addirittura anche i bambini e i figli, contestazione al segretario della CIS Bonanni, che è il sindacato più pronto a firmare l'accordo. Il cargo è fuori dalla quota della compagnia aerea italiana, lo ha precisato e lo ha confermato oggi l'amministratore delegato Rocco Sabelli, che ha anche confermato tutta la validità del piano presentato. Il commissario straordinario ha detto l'accordo serve entro domani, il ministro del lavoro Maurizio Sacconi ha detto l'accordo è possibile ma serve la responsabilità e onestà intellettuale di tutti, mentre i piloti, per voce dell'ANPAC, dicono il rischio che la situazione precipiti è alto. Va bene, insomma, si fa per dire, ma insomma, questo è il panorama, la cronaca della giornata, la vicenda purtroppo che avremmo non voluto affrontare, ma insomma, torna di attualità, vediamo di capire che cosa è successo e sta capitando negli Stati Uniti, visto che le notizie che arrivano sul fronte macroeconomico, ma anche su quello delle singole banche, lasciano e suscitano molte, molte perplessità. Perché insomma, vedere che l'America a luglio ha avuto con un euro, quindi un dollaro debolissimo, l'euro ancora viaggiava intorno a 1,44, 1,45, forse anche 1,47, vado a memoria, a luglio ha visto salire il suo deficit commerciale a 62 miliardi di dollari, vuol dire che ha importato più di quanto non abbia esportato per 62 miliardi di dollari, fa capire che al di là dell'effetto greggio, l'effetto dollaro debole non ha aiutato molto le esportazioni delle imprese americane. Nel frattempo Lehman Brothers, uno dei colossi dei gruppi bancari americani, il gotha delle banche americane, è stato quasi tutto colpito dalla crisi dei mutui subprime, tant'è che Bear Stearns è stata di fatto nazionalizzata con una cessione così un po' fittizia a JP Morgan. Citigroup ha perso già 43 miliardi di dollari, Merrill Lynch 37, Bank of America 15, Morgan Stanley 14. Ebbene, Lehman Brothers, che è uno degli altri nomi dell'ex cielo stellato delle banche americane, doveva salvarsi grazie a un ingresso dei coreani e della Sud Corea, che avrebbero comprato un quarto più o meno del capitale. La trattativa è fallita. Oggi Lehman Brothers ha aperto la seduta in calo del 38%, poi è arrivato a perdere il 20%, ma insomma non si capisce che cosa ne sarà della banca. L'S&P 500, l'indice americano, è sceso sotto i minimi da novembre del 2005. Il Tesoro americano e anche la SEC, che è la Consob americana, hanno detto monitoriamo il mercato con attenzione. A far precipitare il titolo è soprattutto il fatto che il piano di emergenza annunciato ieri dai vertici della banca non stia convincendo i mercati. Sentiamo un passaggio di questo piano per voce dell'amministratore delegato alla banca, Richard Fuld, che non ha parlato di un partner strategico, non ha citato un'alternativa ai coreani. Alla luce degli ultimi giorni abbiamo deciso di diffondere in anticipo i risultati trimestrali. Vogliamo annunciare anche alcuni importanti cambiamenti, sia dal punto di vista finanziario che operativo, che porteranno a un significativo riposizionamento della banca. Questo include anche una massiccia riduzione della nostra esposizione sul mercato immobiliare, commerciale e residenziale. Sin dal secondo trimestre è stato rilevato un significativo deterioramento del settore immobiliare. Come sapete, il nostro interesse principale è quello di tutelare gli azionisti e ridurre l'esposizione al rischio. Oggi stiamo prendendo alcune decisioni necessarie. Voglio annunciare che stiamo discutendo con BlackRock la vendita degli asset del settore residenziale e questo ridurrà la nostra esposizione sul settore residenziale di circa la metà. Voglio ringraziare i nostri clienti e partners per il loro importantissimo sostegno in questo difficile periodo. Sono stati fatti passi concreti e la società ha una strategia credibile. Sì, rassicurazioni che non sono servite sul mercato. Pensate che da inizio anno Lehman Brothers ha perso in borsa il 90% del suo valore. E ne parliamo oggi con da un lato una voce nota, Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Buonasera Mario. Buonasera. E dall'altra l'economista Mario De Aglio, che insegna economia internazionale all'Università di Torino, editorialista della Stampa e uno dei primi, un anno e mezzo fa, lo ricordo sempre, a dire attenzione, la crisi delle banche è una crisi di fiducia, nemmeno loro sanno quanto sono esposte. Purtroppo professor De Aglio ha avuto più che ragione. Buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, un'altra persona che io do sempre un tributo a chi ha dato previsioni corrette anche quando sembravano così un po' eccessivamente pessimistiche è stato 2 anni fa Giovanni Tamburi, che fa il banchiere privato, non fa l'economista, non fa il giornalista, ma insomma investe, fa private equity. Ci disse: attenzione, dall'America arriverà una botta micidiale. Tutti l'ho preso per una Cassandra. Io ricordo che Cassandra portava un po' di sfortuna, ma aveva anche ragione. E ieri lo abbiamo avuto ospite, c'è una frase che ha colpito molti ascoltatori, ve la faccio riascoltare perché poi insomma è una frase che il gufo, per quanto serva, se lo merita tutta. Sentiamo. Ma direi senz'altro è andato in crisi l'intero sistema. Adesso non conviene mai parlare al passato o dire che uno ha detto certe cose o altro. La realtà è che siamo nella crisi finanziaria più grande che la nostra generazione, le nostre generazioni abbiano visto negli ultimi decenni. È partita dai famosi subprime, tra l'altro il mondo dei media continua a insistere su subprime, in realtà è una cosa già sostanzialmente digerita e superata, mentre invece stanno partendo le crisi sui prime, cioè sui debitori in teoria più forti, e la cosa si sta facendo molto più grossa. È una crisi enorme, è una crisi essenzialmente finanziaria e credo che comunque ne avremo ancora per un po', cioè chi ha festeggiato lunedì pensando che con il salvataggio di Fannie Mae e Freddie Mac, altre due società di cui a questi microfoni abbiamo parlato più di una volta, perché era chiarissimo a tutti che si dovesse prima o poi rivelare questo grande bluff che gli americani ci hanno propinato per anni, quella segnalazione del weekend secondo me è il segnale dell'inizio della crisi vera, non è il segnale della fine della crisi dei subprime. Andiamo bene. Allora, due cose mi hanno fatto riflettere in quello che ha detto. La prima, lei dice, attenzione, qui la crisi si sta spostando ai subprime, cioè da quei mutui, da quei prestiti che erano sotto un livello accettabile. Si sapeva già che fossero ad alto rischio, venivano impacchettati e poi facevano un giro come il cerino di tutte le banche mondiali. Si sta spostando ai prime. Cioè, cosa... Può tornare su questo punto, perché non vorrei creare né allarmismi né incomprensioni. Allora, subprime vuol dire coloro che prendevano un mutuo ma non si sarebbero potuti permettere di prendere quel mutuo, cioè che avevano sostanzialmente solo lo stipendio e talvolta neanche lo stipendio per far fronte al mutuo sulla casa. Prime è aziende o persone che hanno invece beni al sole a prescindere dal debito che hanno contratto con la banca, e per cui è un settore che sta toccando le aziende oltre che le persone che facevano il mutuo sulla casa. E lei ritiene che la crisi si stia spostando dai debitori più insolventi, più a rischio e dal modo in cui questi debiti sono stati trattati a debitori anche invece normali, non patologici? Sì. Nel senso che noi vediamo innanzitutto banche di tutti i tipi coinvolte in crisi. La società americana che certifica lo stato di salute delle banche ha dichiarato 8 giorni fa che ci sono in America in questo momento 143 banche in odore di fallimento o sull'orlo del fallimento, con un patrimonio netto a rischio di circa 78 miliardi di dollari. Pensiamo che il fondo interbancario di garanzia, per chiamarlo all'italiana, dell'intero sistema finanziario americano ha 25 miliardi di dollari. Per cui cioè nemmeno un terzo. Nemmeno diciamo. Circa un terzo. Allora, prima di così ieri Giovanni Tamburi, prima di sentire Mario De Aglio e Mario Platero, il nostro oggetto scaramantico, mi sembra d'obbligo a inizio del programma. Eh sì, perché insomma, se non ci scherziamo un po' sopra, forse non ne usciamo con un po' più di spirito. Allora, professor De Aglio, lei ha sentito Giovanni Tamburi, dice il salvataggio e la nazionalizzazione di Fannie Mae e Freddie Mac è l'inizio addirittura della crisi, si stanno spostando i rischi da chi era già a rischi subprime a chi ha normalmente contratto un debito, sono coinvolte tutte le banche, adesso Lehman Brothers sta perdendo il 40%, praticamente sta scomparendo dal mercato, se va avanti così, e alla fine cioè, ha fatto male a festeggiare chi diceva vabbè ormai le banche sono intervenute, si va verso lo svolgimento della crisi. Il fondo di garanzia americano interbancario ha soldi per un terzo rispetto ai rischi di insolvenza presenti sul mercato. Professore. Sì, credo di essere molto in sintonia con quello che ha detto Tamburi. Devo confessare che sono combattuto tra, da un lato, se vuole, la soddisfazione professionale per aver capito un anno fa che qui era una questione di strutture e di regole e non invece di semplici deviazioni di qualche operatore, e la paura, francamente, di quello che vedo, cioè qui sta venendo giù tutto, negli Stati Uniti, noi siamo ai margini e potremo probabilmente continuare a stare ai margini e prenderci solo qualche schizzo, se tutto va bene. Ma sicuramente nel sistema più grande del mondo la finanza deve essere riscritta. Ormai dopo Fannie Mae e Freddie Mac non c'è più niente da fare. Ormai lo Stato è entrato a due piedi nel mercato, deve continuare a starci, è uno Stato che ci entra malvolentieri perché ideologicamente non avrebbe mai voluto fare una cosa del genere, ma non c'è altra soluzione. Ricordiamoci che quando Roosevelt venne al potere nel 1932, tutte le banche dichiararono una vacanza di 4 giorni, diedero tempo al Presidente per preparare un decreto che fu approvato dal Congresso alla velocità della luce, e con questo decreto veniva stabilito che le banche non potevano più operare al di fuori del loro Stato, venivano stabilito tutta una serie di regole per cui si ripartiva da zero sostanzialmente. Io temo che negli Stati Uniti l'opzione di ripartire da zero, anche se non è ancora attuale, si sta avvicinando ogni momento di più. Allora, e qui veniamo al ruolo della politica. Per chi si fosse perso le puntate precedenti, in sostanza lo scorso fine settimana il governo americano ha salvato le due agenzie semipubbliche, Fannie Mae e Freddie Mac, che da sole garantivano la metà di tutti i mutui americani, 6.000 miliardi di dollari. Le ha nazionalizzate perché altrimenti sarebbe stato veramente, veramente l'inizio di un collasso. E questo intervento però la dice lunga sulla difficoltà di questa crisi. Mario Platero, brevemente anche per te un commento a quanto ha detto ieri Giovanni Tamburi e oggi ha ribadito con ancora più forza Mario De Aglio. Però De Aglio citava giustamente l'intervento di Roosevelt che arrivò dopo la crisi del 29 e decise tutto un insieme di azioni, tra cui quella che citava, ma non solo. A me sembra che anche il vuoto politico dovuto alle elezioni americane non stia giocando a favore di questa crisi. Ma dunque, intanto a commento di quello che ho sentito prima, non è vero che la crisi subprime si è esaurita, la crisi subprime continua a manifestarsi ormai in modo indiretto attraverso le partecipazioni di banche che avevano investito in questi portafogli facendo, prendendo delle posizioni di leverage ben al di là di quel che così il semplice istinto poteva suggerire, e si trovano in questo momento da una parte con carta straccia, dall'altra con dei debiti che debbono pagare. Ecco, una delle gravi, uno dei prossimi intoppi, una delle prossime crisi che si apre davanti a noi è quella dei 500 miliardi di dollari circa di indebitamento che queste banche hanno. Alcuni di questi prestiti andranno in scadenza e non sapranno probabilmente come ripagarli. Per questo, al di là di Lehman Brothers, vediamo oggi l'intero comparto bancario in difficoltà e in difficoltà profonda. La politica per ora ha giocato un ruolo così di pompiere, è intervenuta, ha rilevato queste due istituzioni, anche questo direi era un fatto annunciato, cioè nel momento in cui ci si è resi conto che Freddie Mac e Fannie Mae erano in difficoltà, questo già parecchi mesi fa, era inevitabile che poi ci fosse prima o dopo l'intervento del governo. La politica ha sbagliato perché forse Paulson avrebbe dovuto intervenire molto prima di quanto abbia fatto, in modo da cercare ad anticipare i tempi, creare un po' di così, rassicurazione sul mercato. A questo punto concordo assolutamente con quel che ha detto De Aglio sul discorso delle regole. Se ci focalizziamo su Fannie Mae e Freddie Mac, questi due enormi istituti finanziari si sono trasformati in una sorta di mostro perverso, perché erano nati con una missione molto specifica, il primo appunto negli anni 30 per Fannie Mae, per risollevare un po' le sorti di una crisi analoga alla nostra nel settore immobiliare. Poco dopo, anni dopo, è nato Freddie Mac per creare un po' di concorrenza, ma la perversione di questa faccenda sta nel fatto che furono semi privatizzate senza diventare davvero private, per cui tutti investivano sapendo sì. Che dietro c'era lo Stato, e l'elemento grave fu che ci fu una deregolamentazione che quindi mandò le cose assolutamente fuori controllo. Quindi la responsabilità democratica e quindi della sinistra è di non aver fatto una cosa chiara, cioè di non averle tenute dentro lo Stato oppure di non averle privatizzate completamente. Quella della destra e dei repubblicani è nell'aver incoraggiato una deregolamentazione che ha creato il papò. Allora, Mario Pratella, dopo le informazioni meteo e la pubblicità, io però vorrei capire, intanto preciso una cosa, Giovanni Tamburi non aveva detto ieri che non ci sia più crisi nei subprime, ma che la crisi dai subprime si stia spostando e allargando anche ai prime, cioè anche ai debitori in realtà buoni, non così a rischio. Però, dopo le informazioni meteo, vorrei restare sulla politica con te e con il professor De Aglio, perché tutto questo paragonare l'ha fatto anche il ministro Tremonti in tempi non sospetti, la crisi finanziaria attuale alla crisi del 29 ha come portato il dire bene, allora se ne uscì con un'iniziativa forte, fortissima della politica, ci fu la Tennessee Valley Authority, un insieme di atti in America che portarono appunto a creare occupazione anche in maniera fittizia, le banche in tutto il mondo vennero garantite dalle banche centrali, non gli fu più permesso di fallire, ma allo stesso modo ci fu il controllo delle banche centrali dentro le banche normali, cioè ci fu una rivoluzione nel capitalismo allora. In America in questo momento c'è un silenzio assordante, Obama si preoccupa se è fatto male a non tenersi Hillary e McCain festeggia la presenza della Palin, ma non sentiamo nulla di tutto questo. Vorrei la risposta dopo meteo e pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms. Attenzione, la grande migrazione è cominciata. Anche quest'anno scendono a milione da nord a sud. Viaggiano in gruppo, fanno tappa in cassetta postale, nidificano in tutte le case, si adattano a ogni spazio e ogni nucleo familiare, controllando in cassetta postale anche senza binocolo. Sta arrivando il nuovo catalogo IKEA 2009. Mille nuove idee per creare una casa a modo vostro. Nuovo catalogo IKEA 2009. La stagione delle idee è cominciata. IKEA, qualità al miglior prezzo. Hai la partita IVA? Questo messaggio è per te. Becas Automobili, la grande concessionaria del Nord-Est, ha riservato ai professionisti e a tutte le aziende un settembre straordinario. Clicca becas.it. Oggi Chrysler Voyager Leathermatic, listino 38.500 euro. Auto di Becas a 24.500 euro. IVA IBT esclusi. Interamente finanziabile. Prima rata dicembre. Clicca becas.it per tutte le super offerte disponibili. Prenditela morbida con i croissant Bauli, una sfoglia così delicata che ammorbidisce la giornata. Storia in auti dei Greci e dei Romani, un'opera di grande valore che vi racconta la storia degli eroi e la vita della gente comune, le grandi battaglie e le piccole conquiste, quello che avete sempre saputo e quello che non avreste mai immaginato. Storia in auti dei Greci e dei Romani, due grandi civiltà, un'unica grande opera, in edicola il secondo volume con il Sole 24 Ore o il Giornale. Che tempo fa? Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24, anche oggi abbiamo avuto bel tempo in gran parte dell'Italia, ma sulle regioni di nord-ovest, in Toscana e in Sardegna, si sono fatte vedere le prime nuvole, segnale di un cambiamento che interesserà l'Italia nei prossimi giorni, in particolare nel fine settimana. Ma già domani ritroveremo parecchie nuvole al nord, nubi anche compatte che porteranno nel pomeriggio qualche rovescio temporale, inizialmente sulla fascia alpina prealpina, ma in estensione poi a fine giornata anche alla pianura piemontese, lombarda e al Levante ligure. Qualche nuvola è prevista anche al centro-sud, ma qui alternata ad ampie zone di sereno, il peggioramento arriverà più a fine giornata, a iniziare dalle regioni del Medio Tirreno. Dal punto di vista delle temperature, oggi è stata una giornata molto calda, in molte località abbiamo toccato i 35 gradi, ebbene per domani è prevista una diminuzione al nord, con le temperature massime che rimarranno al di sotto dei 30 gradi, farà ancora caldo al centro-sud, ma con valori leggermente più bassi rispetto a oggi. E con questo per il meteo è tutto. Allora, Giramondo, il tuo viaggio? Da non crederci, bellissimo. Si vede dalla faccia. E questo livido? Ah, niente. Continuava a darmi pizzicotti per essere certo di non sognare. Con Lufthansa, oltre 100 destinazioni nel mondo a prezzi da sogno. Ad esempio, Stati Uniti da 489 euro o Asia da 499, tutto incluso. Prenota subito e voli fino a marzo 2009. www.lufthansa.com. Lufthansa, there's no better way to fly. Il mondo di Eni. Per gestire amministrazione, finanza, controllo, produzione, distribuzione, logistica, qualità, clienti, personale, documenti, commercio elettronico. www.esasoftware.com. Sei carico? Sì! Quanto? Tanto! E avanza pure spazio! Meta? Ovunque! Pronto a partire? Sì, a partire da 14.900 euro con i record daily! Coach! Per vincere ogni giorno nel tuo lavoro, hai bisogno di un fuoriclasse. Oggi Iveco Daily può essere tuo a partire da 14.900 euro. Offerta IVA esclusa, incentivi alla rottamazione compresi. Valida fino al 31 ottobre. Iveco, sponsor ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby. Digli di comprarsi un Daily! Chiama il numero verde 800-800-288. Buon lavoro a chi vuole l'aumento, a chi ha le stock option e chi no. A chi ha fringe benefit e chi no. A chi li vorrebbe. A chi ha un sogno nel cassetto e a chi l'ha già realizzato. A chi si fa i suoi conti e a chi dovrebbe farne di più. A chi apre un ufficio, a chi lo cambia, a chi guarda lontano. Buffetti augura buon lavoro a te che torni in ufficio e dal 1 al 20 settembre ti offre il 20% di sconto su tutti i prodotti a marchio Buffetti. Buffetti, buon lavoro. Diciassette e quaranta minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Vorrei concludere l'approfondimento con i nostri due ospiti, il professor Mario De Aglio e il corrispondente da Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, Mario Platero. Due le domande che sono arrivate principalmente al 349-238-6666. Da un lato, ma insomma, la principale è, ma a noi europei che ce ne frega? Beh, attenzione, perché tutte le stime di crescita dell'Europa sono state riviste al ribasso. L'Italia ormai è in stagnazione, speriamo che non vada in recessione. L'Europa pure, l'abbiamo pagata sul fronte dei tassi di interesse della BCE e anche quelli interbancari. Pur essendo una crisi nata in America, noi stiamo facendo la figura del vaso di coccio, come spesso avviene a livello mondiale. Quindi certo che ci interessa, che discorsi sono, se l'America frena, rallenta o va in recessione, noi non è che facciamo qualcosa di diverso. Allora, professor De Aglio, l'assenza e il silenzio della politica. È mai possibile che una crisi, altri chiedono, ma insomma le teste verranno tagliate? Sì, ma ormai è anche inutile questo, le teste sono state tagliate, ma la crisi è andata avanti lo stesso. Una crisi che non è più una crisi singola di un settore, ma una crisi di sistema e di modello capitalistico, di assenza di regole, di assenza di responsabilità, possibile che scompaia il tema della campagna elettorale? Mi lasci prima rispondere a quell'ascoltatore o ascoltatrice che diceva ma noi che ce ne frega, perché sono in molti. Una domanda spontanea ma in un certo senso interessante. La cosa è in questi termini, le nostre banche sono complessivamente fuori da tutto questo, sono abbastanza ben amministrate, non hanno preso rischi. Ma si trovano ad avere dei normali rapporti con le banche che lei citava prima, con Lehman Brothers, con Bank of America, eccetera, cioè con banche che forse non pagano. E se non pagano, delle banche che fino a ieri sembravano solidissime, noi che abbiamo i crediti abbiamo delle perdite. Quindi, in quanto esiste un sistema finanziario internazionale, la malattia si trasmette dalle banche cattive alle banche sane proprio per i normali contatti di lavoro. Ecco quindi il punto importante da fare. E dalle banche sane ai correntisti, perché poi sappiamo che anche le banche europee, se non riescono a ottenere i soldi che volevano, scaricheranno qualcosa su di noi. Comunque, la politica dov'è? La politica dorme nel modo più totale. Questo vale per l'Italia, ma siamo abituati al fatto che i nostri politici non sappiano più fare i bilanci dello Stato, hanno bisogno dei tecnici, eccetera, eccetera, ma anche negli Stati Uniti, dove si parla di tutto, si parla di maiali e di rossetti, ma ci si guarda bene dal toccare un tema di questo genere. E perché ci si guarda bene? Perché nessuno sa bene cosa fare. Chiamiamo le cose con il loro nome. Il re è nudo. Cioè non abbiamo nessuna ricetta, che non sia la vecchia ricetta keynesiana, che è un po' come quelle medicine che poi stroncano, danno un sacco di inconvenienti, cioè che lo Stato entri pesantemente a due piedi sulle tavole dell'economia, si prende le perdite, si prende tutto il resto insieme alle perdite e quindi abbiamo davanti 20 anni di statalismo. Ecco, su una cosa dissento, professor Deaglio, perché a me sembra che invece in Europa, poi lasciamo stare la valutazione, ma Sarkozy, Tremonti, qualche iniziativa politica nei confronti della BCE, ma insomma sul nuovo ruolo che deve avere lo Stato, pensiamo anche alla proposta che è arrivata da Chernobyl di una grande cassa depositi e prestiti su base europea per fare le opere infrastrutturali, altro che Tennessee Valley Authority Act. Mi sembra che qualche tema, almeno i politici europei, lo dico non per tifare Europa, lo affrontino. In America non si sente nulla, l'ultimo discorso di Bush è stato tutto un discorso rassicurante. Mario Platero, su questo, siccome la risposta è articolata, ti chiedo ancora un minuto di pazienza, il nostro palinsesto prevede anche le informazioni per chi è in viaggio e poi la voglio sentire tutta, un silenzio forse più forte in America, dove la crisi è nata, rispetto all'Europa, che la crisi la sta solo subendo. 349-238-6666 per gli sms. Che strada fa? Sull'autostrada ci sono code di 6 km tra bivio per la 15 della Cisa e Terre di Canossa verso Bologna per un incidente. Si tratta di un mezzo pesante che è uscito fuori strada. Il traffico attorno alla città di Bologna è molto intenso, soprattutto sulla 14 Adriatica e sul ramo di Bologna a Casalecchio. Si sono formate code anche per un veicolo in avaria tra Bologna a Casalecchio e l'allacciamento con la 14. Un altro incidente interessa la A21 Torino-Piacenza, dove si segnalano code tra Asti-Est e Felizzano verso Piacenza. Alcune notizie dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Si segnalano ancora difficoltà per le proteste legate alla situazione all'Italia, si registrano ritardi e cancellazioni alle partenze di alcuni voli, problemi anche ai check-in e al ritiro bagagli, il corteo adesso si è spostato dalle partenze agli arrivi, disagi anche la circolazione del traffico quindi all'esterno dell'aeroporto, visto che i lavoratori all'Italia si trovano proprio in mezzo alla strada. Ed è tutto, altre notizie tra mezz'ora circa. Sì, queste scarpe qua stanno meglio. Le prendo. Ok. Mi ha staccato il tacco. Signora, su, pensava fossero intere. Due tacchi voleva. E se i tuoi interessi togliessero sempre una parte importante? Barclays, invece, è la banca che parla netto. Il 5% netto sui tuoi risparmi fino a 12 mesi. Da oggi parlare di lordo non sta più in piedi. Barclays netto. 800-106-106 o barclays.it. Messaggio pubblicitario, fogli informativi in filiale su barclays.it. Focus Economia. Allora, Mario Platero, dove sono Obama e McCain che si preoccupano più dei loro vicepresidenti che di una crisi a questo punto di sistema, di modello capitalistico americano? Ma dunque, intanto consentimi di dissentire, non è affatto vero che non si preoccupano di questo, sia l'uno che l'altro hanno dedicato una gran parte dei loro comizi negli ultimi giorni all'economia, io stesso ho seguito Barack Obama in Ohio, dove per 3 giorni ha parlato soltanto di economia e di energia, questo qualche settimana fa, quindi l'argomento è presente, forse se ne parla poco perché il sensazionalismo della nostra stampa prevale magari il rossetto sull'analisi di idee o progetti che prenderanno corpo solo quando ci sarà la nuova amministrazione, quindi ma direi che di questo se ne parla, l'opinione pubblica americana è preoccupata dall'andamento economico. Aggiungo un altro elemento, che le cose vanno male, ma l'America ancora non è sprofondata in un buco nero. Questo in parte mi preoccupa anche, perché per esempio, la borsa è vero, ha perso un 20% dai massimi che aveva raggiunto circa un anno e mezzo fa, due anni fa, però resta su livelli tutto sommato alquanto dignitosi. L'economia è cresciuta del 3,3% nel secondo trimestre, quindi è un'economia che tiene, grazie all'intervento dello Stato, quindi lo Stato si è reso parte attiva di questa cosa, sia attraverso le sue agenzie federali e quindi con la Banca Centrale che ha allentato la stretta creditizia e quindi reso denaro più facile, cosa che per esempio in Europa non è successa per tutta una serie di limiti che conosciamo sulle attività della Banca Centrale Europea. Il Congresso insieme all'amministrazione ha approvato un piano da oltre 100 miliardi di dollari per aiutare coloro che si trovavano in difficoltà e dunque un piano di stimoli. Si dibatte di tasse, i repubblicani dicono dobbiamo tenere le tasse basse e i democratici dicono dobbiamo aumentarle e questo ovviamente avrà un impatto macroeconomico, quindi direi se ne parla ogni giorno e se ne parla in modo approfondito. Il problema è che la questione si è appena aperta, soprattutto su Freddie Mac e Fannie Mae, ora che sono state nazionalizzate non si sa quale sarà il loro futuro, ma perché non si sa? Beh, perché abbiamo una elezione in corso, abbiamo un nuovo congresso che si insedierà a novembre insieme al Presidente degli Stati Uniti che si insedierà al 30 gennaio, alla fine di gennaio, e quindi sarà la prossima amministrazione, il prossimo congresso che dovranno decidere che fare di queste due istituzioni, ma il dibattito esiste ed è molto chiaro. I repubblicani, dunque la destra, vogliono che questa sia l'occasione per ridimensionare queste due istituzioni, Freddie Mac, Fannie Mae, riportarle su livelli più controllabili per evitare che si crei una polarizzazione così forte, 5.000 miliardi, l'hai ricordato tu stesso, vogliono che non superino i 250 miliardi di dollari per asset totali e vogliono che poi siano restituite al mercato e privatizzate, in modo non diverso da quello che capitò alla fine degli anni Ottanta, quando ci fu una crisi analoga, di questo ne parlano in pochi, ma ci fu una crisi delle casse di risparmio allora, il governo intervenne pesantemente, sì, creò una società che si chiamava Resolution Trust Corporation, la RTC, questa sì. RTC fu finanziata con 500 miliardi di dollari di allora, oggi si parla solo di 200 miliardi di dollari per ora per Fannie Mae e Freddie Mac, quindi il dibattito c'è, l'America ha vissuto momenti simili, poi ne è uscita. Il paese, direi, è un paese strutturalmente solido. Per ora la crisi è una crisi finanziaria, sì, non si è ancora estesa all'industria, non si è ancora estesa all'economia reale. Il rischio è che questo succeda, naturalmente, ma quello che sta cercando di fare il governo oggi è di occuparsi e di preoccuparsi del fatto, e credo che questo sia un obiettivo comune anche al comune all'amico sì. De Aglio, cioè di evitare che da qui si vada a una crisi sì. sistemica vera. Allora, Mario Padre, chiarissimo il tuo ragionamento. Devo dire però che con tutto il distinguo del caso, una risposta alta, se mi permetti il termine, a una crisi sistemica in cui è saltato per aria un sistema, io non l'ho sentita, ma sarà sicuramente colpa mia, ho sentito e ho letto di interventi, ma una soluzione insomma forte di presa di coscienza dei repubblicani democratici ancora non l'ho sentita, ma avremo modo di parlarne. Per ora grazie a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti, al professore Enrico De Aglio, editorialista della Stampa, Mario De Aglio, scusatemi, editorialista della Stampa, l'ho confuso con il fratello, chiedo venia a tutti e due. Adesso però voglio un commento sulla borsa da Eleonora Micheli, anche perché di borsa abbiamo parlato fino ad ora a livello americano, le ripercussioni di Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, sui titoli italiani, in particolar modo quelli bancari, Lehman Brothers sta perdendo adesso il 35% del suo valore in borsa. Eleonora. Sì, come hai detto tu, ovviamente il tracollo di Lehman Brothers, che ha aperto in calo del 40, ora perde il 35, ovviamente ha pesato su tutto il comparto bancario europeo, che tuttavia proprio sul finale è riuscito un po' ad arginare i danni. Poco fa perdeva il sottoindice Stoxx 600 oltre il 3%, ha chiuso con un meno 1,8%. Anche le banche italiane, diciamo, hanno ridotto le perdite. Unicredit, ad esempio, ha terminato le contrattazioni in calo dell'1,3%, UBI dell'1%, MPS dello 0,8% e la stessa Intesa San Paolo ha lasciato sul parterre l'1,68%. Tanto, ma di sicuro meno rispetto ai minimi toccati durante la seduta. E poi c'è una difficoltà ancora anche oggi del settore del lusso, Bulgari meno 2,7%, debolezza a livello europeo, risultati della Svizzera Richemont che non sono piaciuti, preoccupazioni sull'America. Su Seat, in una battuta, perché siamo in chiusura, Leonora, che è il peggior titolo dell'S&P MIB, meno 4,5%. Seat ha pesato il giudizio di Exam BNP Paribas, che ha espresso appunto che ha raccomandato un underperformer e peraltro a soli due giorni dal giudizio negativo emesso da JP Morgan, e quindi i titoli appunto ne hanno subito le conseguenze. Cito anche Parmalat, meno 4,1%, Mediolanum meno 3,2%, Mondadori meno 2,8%, come Buzzi Unice, meno 2,6%, lo ha perso appunto Bulgari, ma anche l'Espresso, il 2,2% Fiat, l'1,7% Intesa, l'1,6% Geox, nonostante l'accordo con Bell International Holding per vendere scarpe negli outlet cinesi, Fondiaria meno 1,5% come Alleanza, in pregilo meno 1,4% come Prismian, di Unicredit hai detto tu. Bene, stime Microelectronics più 2,8%, Atlantia più 2,7%, perché Atlantia? Atlantia, praticamente continuano a circolare mille ipotesi, ovviamente sulla possibilità che la società effettui abbia qualche progetto, come ha confermato ieri Castellucci, l'amministratore delegato, con DMT, che peraltro è salita del 6%, ovviamente sul dossier delle torri, potrebbero mettere infatti le torri assieme e acquistare magari anche le torri di Telecom Italia. Per adesso si tratta di ipotesi, forse qualche delucidazione arriverà il 25 settembre, quando è in calendario il consiglio di amministrazione di Telecom Italia. Tenaris più 2,3, Saipem più 1,7, Snam più 0,90 come Eni, Luxottica più 0,7%. Euro in recupero a 1,39,36, adesso c'è il GR e poi parliamo soprattutto di federalismo fiscale, quindi dai temi dell'economia internazionale ai temi dell'economia nazionale. Resta invariato il numero per i vostri SMS, 349-238-6666. Diciotto e 9 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, per parlare adesso di federalismo fiscale, molti messaggi che sono arrivati sul tema di apertura, ossia a che punto siamo di questa crisi americana, visto che nonostante il salvataggio di Freddie Mac, oggi un altro grande nome delle banche americane, Lehman Brothers, sta perdendo un altro 35%, non riusciamo a rispondere a tutti. Tra l'altro che molti sono intervenuti anche sul tema dell'assenza in America di un'iniziativa politica forte, uno slogan chiaro su cosa vorranno fare Obama o McCain a seconda di chi vinca. Adesso ci occupiamo dei casi di casa nostra, nel senso che oggi all'interno del Consiglio dei Ministri è anche stato dato il via libera per quello che riguarda il progetto di federalismo fiscale, un progetto importantissimo, delicatissimo, che vuole ridisegnare il rapporto tra regioni, enti locali e Stato centrale, e lo vuole fare attraverso due pilastri, da quello che abbiamo capito: il fondo cosiddetto perequativo, per cui riequilibrare regioni più ricche con regioni più povere, e poi anche un costo di spesa standard per i servizi erogati. Ma andiamo con ordine. Il Consiglio dei Ministri questa mattina ha approvato infatti in via preliminare lo schema del disegno di legge delega in materia di federalismo fiscale. La prossima tappa è il 18 settembre, quando l'esame di questo testo verrà posto all'attenzione della conferenza Stato-Regioni. E vi sarà anche più tempo al governo per dare attuazione alla delega sul federalismo fiscale. L'articolo oggi passato al Consiglio dei Ministri prevede che il governo abbia 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge per i decreti legislativi, che poi sono quelli attuativi, quelli in cui si va a capire veramente come funzionano le singole voci.

e la regione che supererà l'asticella dovrà a quel punto finanziarsi autonomamente. Secondo una simulazione del Sole 24 Ore, l'applicazione di questo metodo dovrebbe tradursi in una cura dimagrante di circa il 15%. La spesa complessiva delle regioni per istruzione, sanità e servizi sociali dovrebbe infatti scendere da 113 a 96 miliardi di euro l'anno. E infatti, come spiegava anche il ministro Calderoli, dal concetto di spesa storica per il servizio si passa al concetto di costo standard, diverso per regioni e regioni, e da lì il risparmio. Il professor Massimo Bordignoni, editorialista del Sole 24 Ore, uno dei massimi esperti di federalismo, anche fiscale, in Italia. Buonasera. Buonasera a lei. Dunque, le informazioni per chi è in viaggio, poi domanda molto banale. Se noi avevamo una certa spesa e questa spesa poi veniva distribuita da Roma alle varie regioni, nel principio del federalismo c'è un principio, a mio avviso, corretto. Tu devi avere anche una responsabilità su quello che spendi. Citavo la spesa sanitaria, non è possibile che tre regioni da sole, Lazio, Campania e Sicilia, abbiano il 70% del buco della sanità di questo paese. Dall'altra parte però come fai a diciamo spendere meno garantendo gli stessi servizi, quindi non creando disuguaglianze all'interno del paese? La risposta tra un minuto. Che strada fa? Si registra molto traffico in questo momento della giornata sull'autostrada del Sole, risolto l'incidente tra il bivio per la 15 della Cisa e Terre di Canossa, adesso si segnalano code a tratte in direzione di Bologna, altre code poi si incontrano tra il bivio per la 14 Adriatica e Sasso Marconi verso Firenze per un veicolo in avaria con forti ripercussioni su tutto il nodo bolognese. Molto trafficato anche il tratto prossimo a Milano, quello appenninico, il nodo di Firenze. Traffico in aumento anche attorno alla città di Genova, sulle tangenziali di Milano e Torino, e in Lombardia sulla 4 ci sono code da Agrate a Capriate verso Brescia per traffico intenso e anche per un incidente. Una notizia infine dalla città di Roma: è chiusa per una manifestazione via Fornovo, sede del Ministero della Solidarietà Sociale. Ed è tutto, ci risentiamo tra mezz'ora. Promo 24. Le indagini di mercato evidenziano l'importanza per il successo di piccole aziende e professionisti di avere sempre accesso alle email. TIM, vero partner per chi lavora con il telefonino, permette di avere internet e mail sempre con sé, con tante soluzioni immediate da abbinare a tutte le nuove offerte. Ad esempio, con TIM Affare Fatto al Lavoro bastano 10 euro al mese per avere la mail ovunque e il BlackBerry è incluso. TIM Affare Fatto al Lavoro, inoltre, è la tariffa con cui si paga realmente solo quello che si consuma, senza costi fissi. Durata contrattuale minima di 24 mesi, offerta soggetta a limitazioni, prezzi IVA esclusa. Per maggiori info andate su business.team.it o presso un negozio il telefonino TIM. Focus Economia. Allora, professor Bordignon, prima domanda: come si fa a risparmiare senza aumentare le sperequazioni? L'idea nel federalismo fiscale è che tu paghi un servizio in base a un costo standard che cambia da regione a regione, però è inferiore in molti casi al costo storico, che è quello che viene utilizzato adesso. Nel Lazio, per esempio, la differenza sulla sanità vale quasi 3 miliardi di euro, in Campania c'è una bassa capacità fiscale e un'alta densità demografica. Allora, la quadratura può avvenire con, da un lato, un fondo che riequilibri le diversità nella ricchezza del paese, e dall'altro però un costo standard che io ti garantisco con questo fondo, però se tu spendi di più del costo standard, sono fatti tuoi. Ma dunque, la speranza è questa, cioè tutto il gioco del meccanismo dovrebbe andare esattamente nella direzione. Come si fa a ridurre la spesa? Si cerca di ridurre le inefficienze, quindi se c'è l'idea di fondo del costo standard è del tutto sensato. Se c'è una regione che riesce a offrire un certo servizio con 100, non è possibile che un'altra ci metta il 150, cioè si può immaginare qualche piccola variazione, ma tendenzialmente le regioni dovrebbero più o meno essere in grado di offrire gli stessi servizi alla stessa spesa. Mi faccia soltanto però dare due correzioni rispetto a quello della scheda, e forse può essere utile anche per chi ci ascolta. Allora, naturalmente quel modello previsto è naturalmente soltanto a regime, cioè c'è tutto previsto un periodo anche di transizione, per cui non si immagina di poter fare il passaggio da oggi al domani. L'importante è però che ci sia uno schema attraverso il quale, se queste stime delle spese, delle cose, costi standard sono fatti bene, poi si tende a spingere in quella direzione. La seconda cosa da aggiungere è che in realtà il sistema non è che cambia moltissimo rispetto a ora per la maggior parte delle funzioni, perché anche ora adesso la sanità è in parte finanziata con i tributi delle regioni e in parte con dei trasferimenti. È la stessa cosa, magari si lascia un po' più di soldi alle regioni perché probabilmente ci saranno, la regione più ricca diventerà autonoma, cioè non riceverà soldi dal fondo perequativo, ma non è che cambia molto. Per questo dico, prima di cantare anche vittoria, insomma, diciamo così anche sullo schema, bisogna vedere poi come verrà applicato dopo, certo. Se poi, siccome resta comunque un forte intervento da parte dello Stato, comunque si tratta di servizi essenziali e quant'altro, se poi ci sarà la forza di riuscire a imporre la disciplina di bilancio. Questa è una forza però politica, non è una forza di carattere economico, cioè se poi il governo in carica riesce a imporre la responsabilità di bilancio e poi se non ce la fanno certe regioni la scaricassero sui loro cittadini, così poi la prossima volta sanno chi votare. Questo è un po' il principio del federalismo: ti assumi la responsabilità anche fiscalmente, anche economicamente, di come gestisci la tua regione. Se tu hai spese sanitarie fuori controllo, e non voglio sempre citare i soliti casi, ma insomma ci sono regioni nel Mezzogiorno che insomma dovrebbero farsi un'autoanalisi su come gestiscono i soldi, pensano più ai consiglieri di portaborse che non ai servizi, ebbene pagassero elettoralmente, perché saranno obbligate a caricare di più i loro contribuenti. Mi sembra che l'idea del fondo perequativo e soprattutto del costo standard sia un'idea corretta, cioè io Stato intervengo per garantirti quello che è un servizio sulla base di alcuni costi nella sanità, nella spesa, nell'assistenza sociale, nell'istruzione, cioè a costi medi. Se poi tu, perché hai una struttura assurda fatta di privilegi, di sprechi, spendi di più, sono fatti tuoi. Mi preoccupa un'altra cosa però, professor Bordignon: non rischiamo di moltiplicare i centri di costo? Cioè la spesa pubblica italiana è esplosa anche grazie alla creazione di regioni, province e comuni con grande autonomia, diciamo, di strutture interne. Questo progetto ha un senso se poi si riducono i dipendenti a Roma, detto banalmente? Sì, dunque non è prevista, c'è solo una componente, non so per quale motivo non c'è stata data molta attenzione nel dibattito, anche nella scheda l'ha accennata ma non l'ha detta minimamente, cioè l'unica cosa che viene devoluta in più in termini di funzioni rispetto all'esistente è in realtà l'istruzione. Questo è un tema su cui secondo me dovremmo discutere molto più a lungo, perché è una cosa importante e pesante anche da un punto di vista finanziario, ma nuove funzioni alle regioni non vengono date a parte questo. Quindi quando lei dice la moltiplicazione dei costi deve tenere presente che qui non ne sono previste nuove funzioni, eccetto l'istruzione. Lì sull'istruzione, se il decentramento venisse fatto bene, tutta questa moltiplicazione non la vedo, perché la tipica moltiplicazione avviene quando c'è un ufficio centrale e poi se ne fa un altro ufficio regionale. Ora, i dipendenti, quelli che insegnano, i professori sono già localizzati sul territorio ovviamente, quindi sarebbe un passaggio sostanzialmente a costo zero. No, a me sembra che il problema è magari appunto le dimensioni di questo trasferimento, perché l'istruzione è molto grossa, è distribuita in maniera molto difforme sul territorio e questo può costituire delle grossi problemi. Una mancanza di questo disegno di riforma, e questo lo dico, è che anch'io come lei avrei preferito farlo introducendo anche delle forme di razionalizzazione più forti, per esempio per quanto riguarda certi livelli di governo, le province, piuttosto la riorganizzazione dei comuni. C'era per esempio nel disegno di legge Calderoli che era stata circolata il 3 settembre, c'era una norma che diceva, per esempio le città metropolitane limitiamole soltanto a quelli comuni che hanno sopra più di 350.000 abitanti. Noto che nella versione approvata oggi questo è scomparso, ecco, cioè, quindi quel rischio c'è, io sarei stato su quel punto sicuramente di gran lunga più coraggioso. Cioè sulla riduzione, diciamo, degli accorpamenti degli enti locali e quant'altro. Un'ultima domanda, professor Bordignon: nell'articolo citato dalla nostra scheda del Sole 24 Ore, uscito lunedì, a firma di Gianni Trovati, c'erano vari calcoli, però in sostanza veniva fuori che alcune regioni, cito il caso della Lombardia, e anche del Veneto, delle regioni più ricche, in realtà non avranno diritto a nessun fondo perequativo perché già sono ricche. Si terranno un po' di più in casa e lì alla fine avremo una regione, delle regioni dal punto di vista finanziario, autonome di fatto. Ho capito male io? No, non ha capito male. Allora, per essere chiaro, sui dati, mi permette di dirlo, non è una critica, ma insomma i dati su questi sono molto ballerini, perché quindi è tutta una sì, cosa... Non ci sono ancora i decreti, non è, non ci sono i decreti, non è colpa oggettivamente ipotesi. Poi c'è un altro problema molto serio, questa commissione viene prevista qui, dovrà trovare, confrontarsi con i dati regionali e avrà da mettersi le mani nei capelli, perché il grado di informazione che noi abbiamo purtroppo è molto limitato. No, l'idea è un po' quella. Nella proposta originale della proposta Calderoli c'era scritto addirittura 1, 3 o 6 regioni, quindi c'era un'idea di rendere autonomo un bel pezzo, forse tutto il centro no. Nei fatti questo è impossibile, nel senso che se uno lo fa, soprattutto a tempo zero, la spesa storica vorrebbe dire che alcuni regaliamo dei soldi in più alle regioni, e questo nell'immediato non si può fare. Lì quello che diventerà autonoma soltanto nell'ultima versione è proprio la regione più ricca, quindi probabilmente la Lombardia. Autonoma nel senso che il non riceverà più soldi, avrà un po' più di risorse, con questi si finanzia direttamente la sua la sanità, l'istruzione, l'assistenza, sì, io poi, e quant'altro. Poi ripeto a chi ci scrive che l'obiettivo intanto è di non scassare, a chi ci mancherebbe, di non creare un aggravio delle casse dello Stato, ma poi io penso che l'obiettivo finale sia anche responsabilizzare un po' di più le regioni. Ripeto, non tutti i progetti sono discutibili, ma non veniamo da una situazione bella, veniamo da una situazione in cui le regioni, per via anche di un'assenza di imposizione fiscale forte, non sono responsabilizzate, quindi spendono, tanto poi sanno che Pantalone, ossia tutti noi, vanno a riequilibrare i deficit dei conti di bilancio. Grazie per ora a Massimo Bordignon, editorialista del Sole 24 Ore, da Sebastiano Berisoni e l'augurio di una buona serata, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.